Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la brigata Garibaldi. Cari amiche e cari amichesse, benvenute alla puntata Resistenza di Folk Oddio. Oggi 25 aprile 2020, 75esimo anniversario della liberazione, su Radio Virus le canzoniere, sempre nella persona della Carlessa, vi presentano Folk Oddio, parte seconda, Sorelle Partigiane. Sentite il testo della Brigata Garibaldi? È un pezzo bellissimo, ma è anche un pezzo pieno di giovinezza forte e ardita. E certo anche a noi piace la giovinezza forte e ardita, però ci siamo incuriosite, ci siamo chieste che cos'altro si può trovare nel repertorio dei canti della Resistenza e dei canti partigiani, o che cos'altro si può scoprire se ci mettiamo a cercare. E siamo andate in cerca di lavoratrici, cantanti, staffette. Abbiamo scoperto in realtà che sappiamo troppo poco. Abbiamo scoperto che un sacco di sorellanze sono più musicali che autoriali o di temi, argomenti e contenuti. Però quello che abbiamo trovato adesso ve lo facciamo sentire, ma anche orecchie aperte, perché oggi parte il nostro concorso senza premi, e del quale vi diremo più avanti. Ma soprattutto, anche questa volta, qualcosa proviamo a spiegarlo, impararlo, insegnarlo, per cui imbracciate le vostre chitarrine, che ce la cantiamo e ce la suoniamo come sempre. E prima di cominciare, un sentito ringraziamento alla nostra voce cyborg e ad Abby Normal, che hanno reso possibile l'inserto letterario che oggi includiamo per celebrare proprio le nostre sorelle partigiane. Ma cominciamo proprio dal testo di quella che è stata forse la prima e più popolare voce della Resistenza italiana e che però non ha finito per riempire le piazze, come invece è capitato ad altri canti. Pietà l'è morta e vi tocca declamata dalla vostrissima. Lassù, sulle montagne, bandiera nera, è morto un partigiano nel far la guerra. Un altro italiano va sottoterra. Laggiù sottoterra trova un alpino caduto nella Russia con il cervino. Ma prima di morire ha ancor pregato che Dio maledica quell'alleato, che Dio maledica chi ci ha tradito, lasciandoci sul Don e poi è fuggito. Tedeschi traditori, l'alpino è morto, ma un altro combattente oggi è risorto. Combatte il partigiano la sua battaglia, tedeschi e fascisti fuori d'Italia, tedeschi e fascisti fuori d'Italia, gridiamo a tutta forza, pietà l'è morta. Ed ecco, questo è il genere di testi che si incontra nei canti che vengono rielaborati in queste situazioni di guerra. E la Resistenza è stata una guerra. Non possiamo stupirci che troviamo questo genere di vocabolario, questo genere di immagini. Non possiamo stupirci che le musiche stesse vengano in gran parte dal repertorio di alpini, dal repertorio... addirittura a volte dal repertorio irredentista fascista. C'è una bellissima canzone per i Fratelli Cervi che non sentiremo adesso, che è basata su Dalmazia. Comunque, ci siamo chieste quali sono le sorelle partigiane, quali sono o le parentele con canti che non sono canti di guerra, o i canti che in qualche maniera hanno a che fare con condizioni, con autrici, con personaggi che non siano quelli che rispecchiano i classici valori dell'eroismo maschio e guerresco. In realtà abbiamo trovato molto molto poco. E quindi ecco, per ampliare anche noi le nostre conoscenze, abbiamo deciso di aprire un nostro concorso senza premi, un gioco interattivo. Scriveteci a folk.oddio@canaglie.org e segnalateci quello che non vi viene in mente, quello che non avremo detto e presentato in questa puntata qui. E chiaramente quando pensiamo a sorelle partigiane, non possiamo non pensare, o almeno a me la prima cosa che è venuta in mente è stata le Mondine, perché i cori delle Mondine hanno prestissimo incluso il repertorio di Resistenza e Partigiano, e le Mondine sono andate poi a portare questa conoscenza in giro per il resto d'Italia dopo la liberazione. Questo è stato il caso eclatante di Bella Ciao, per cui non possiamo non cominciare questa puntata con Bella Ciao, che proprio grazie alla diffusione che ebbe in parte proprio per le Mondine, per Giovanna Daffini che la cantò con il Nuovo Canzoniere Italiano nel 65 nello spettacolo che si chiamava Bella Ciao, ha presto sostituito come canto simbolo della Resistenza Pietà l'è morta, che invece abbiamo sentito prima. E quindi niente, bando alle chiacchiere adesso. Bella Ciao è un pezzo che non si può non sapere, il giro è semplicissimo: La minore per tutta la strofa, prendiamo un attimo sta chitarra in mano, La minore per tutta la strofa, e poi Re minore, La minore, io li macello questi canti. Passiamo subito all'ascolto. Bella Ciao nella versione prima delle Mondine e poi dei Partigiani, cantata dal Nuovo Canzoniere Italiano e Giovanna Daffini. Via! Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa'. Oh mamma mia, oh che tormento, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni doma, partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, devi seppellire, seppellire là su in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire là su in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore questa era Bella Ciao, cantata dal Nuovo Canzoniere Italiano nel 1965, la Bella Ciao delle Mondine proprio da Giovanna Daffini, e questo era un esempio di sorellanza tra canto partigiano e canto di lavoro. Bella Ciao è un canto che starebbe benissimo anche in una puntata sul primo maggio e sul lavoro, che tra l'altro speriamo tanto di fare. Però la sorellanza tra canti non è soltanto di questo tipo qua, ci sono delle sorellanze interessanti tra canti di partigiani e canti dell'anarchia. E quello che stiamo per sentire è un canto che ha una sorella maggiore nel repertorio anarchico, da cui prende pezzi di testo, non pezzi di melodia, e adesso ve lo facciamo sentire in una delle mille versioni che esistono. Ne esistono versioni con il ritornello in minore e la strofa in maggiore, quella che sentiamo qua ha la strofa tutta in maggiore, la sentiamo sempre in un disco curato dal Nuovo Canzoniere Italiano del 1963, se non mi sbaglio, è uno dei tanti dischi del Sole che uscirono in quegli anni, in una catena, in una collana di dischi che ha riproposto tutti i canti della Resistenza, canti politici, canti di lavoro dell'Italia fino al secondo dopoguerra, fino appunto agli anni in cui venivano pubblicati quei dischi là. Un'opera importantissima per la conoscenza di questo tipo di repertorio. Il pezzo è Quei briganti neri, qui è cantata da Fausto Amodei. Per suonarlo il giro è in sol e la strofa è sol, re, sol, re, mentre il ritornello è sol, do, re, e la seconda volta sol, mi settima, la minore, re. Non so se vi sto dando troppe informazioni, ma proviamo a vedere come va. Io ve la faccio sentire, nel frattempo potete provare a seguirla, nel frattempo. Quei briganti neri m'hanno arrestato, in una cella scura m'han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte. E quando mi portarono alla tortura, legandomi le mani alla catena, legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare torno in galera. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare torno in galera. E quando mi portarono al tribunale, dicendo se conosco il mio pugnale, sì, sì che lo conosco, ha il manico rotondo nel cuore dei fascisti, lo gettai a fondo. Sì, sì che lo conosco, ha il manico rotondo nel cuore dei fascisti, lo gettai a fondo. E quando l'esecuzione fu preparata, fucili e mitraglie eran puntate, non si sentiva i colpi di mitraglia, ma ma si sentiva un grido: viva l'Italia! Non si sentiva i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido: viva l'Italia! E stiamo ascoltando Coi briganti neri di Fausto Amodei, o meglio eseguita da Fausto Amodei, sempre nell'ambito dei lavori del Nuovo Canzoniere Italiano. Qui siamo su Folk Oddio, scriveteci a folk.oddio@canaglie.org, un programmino dove le canzoniere vi parlano un po' di queste canzoni che potete fare anche a casa vostra quando vi pare. Questo bellissimo pezzo struggente che abbiamo ascoltato, mia madre amava cantarlo, soprattutto amava cantarlo ancora di più quando scoperse che mi faceva piangere se lo sentivo, ed è un pezzo appunto che parla di tortura, non so come tortura, resistenza e mia madre si triangolino in tutta questa composizione. Questo pezzo si triangola però senz'altro con un discorsetto che facevamo sulla tortura l'altra volta, che è la morte di Helen Bölek, che si è lasciata morire di fame perché il regime turco ostacola l'attività del suo gruppo, del gruppo in cui lei ha militato, i gruppi Orum, gruppo musicale. Ricordiamoci che i regimi queste cose tendono a farle, pensiamo al Cile di Pinochet e Víctor Jara, che dopo il colpo di Stato fu assassinato non senza che prima gli avessero spezzato le mani con cui suonava. E per parlare invece a, per tornare invece a temi più o meno, il giro che abbiamo sentito qui era il ritornello, no? Se lo semplifichiamo un po' in una delle tante varianti che ha questo giro qua, restiamo soltanto sempre sul ritornello a sol, do, re, e questa è la versione che ci fa sentire, io adesso ve la faccio sentire perché ci interessa in realtà per il testo, un frizzantissimo, è il caso di dirlo, trio di Rosignano Solvay, le The Soda Sisters. Ma prima di passare alla versione di, delle The Soda Sisters di Quei briganti neri, che l'hanno pubblicata proprio l'anno scorso, mi chiedo se avete riconosciuto qual è il canto anarchico da cui invece questi brani prendono il testo. E le Sisters, a caso di dirlo, sorelle partigiane forse in questo caso, ampliano il testo di Quei briganti neri ripescando proprio le strofe del canto anarchico, così come succede in altre versioni di questo canto ben prima che succedesse adesso nel 2019. Ve lo facciamo sentire subito prima della versione di Quei briganti neri delle The Soda Sisters, è l'interrogatorio di Sante Caserio. Di Sante Caserio magari parliamo in un'altra occasione, però adesso un paio di strofe dell'interrogatorio eseguite a voce sola da una cantante del gruppo Z, e poi The Soda Sisters, Quei briganti neri, di nuovo. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot, l'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, i vostri compagni? Sì, li conosco, io son dell'anarchia. Caserio fa il fornaio e non la spia. Briganti neri m'hanno arrestato in cella buia m'han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare io vado alla morte. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare io vado alla morte. E quando mi portarono alla tortura, mi misero le mani alla catena. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare io torno in galera. Legate pure forte le mani alla catena, piuttosto di parlare io torno in galera. E quando mi portarono al tribunale, mi chiesero se conosco il mio pugnale. Sì, sì che lo conosco, al manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo piantai a fondo. Sì, sì che lo conosco, al manico rotondo, nel cuore dei fascisti lo piantai a fondo. E quando mi portarono al tribunale, mi chiese se conosco il mio compare. Sì, sì che lo conosco, ma non dirò chi sia. Io faccio il partigiano e non la spia. Sì, sì che lo conosco, ma non dirò chi sia. Io faccio il partigiano e non la spia. E quando venne l'ora dell'esecuzione, fucili e mitraglie erano spianati. Non si sentiva in colpi, colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido, viva l'Italia. Non si sentiva in colpi, colpi del cannone, ma si sentiva un grido, rivoluzione. Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione. E queste sono le The Soda Sisters, che rielaborano quei briganti neri e lo seguono con alcune strofe che non si trovano sempre nella versione partigiana, ed è molto bello soprattutto che inseriscano delle rime diverse da mitraglia e Italia alla fine, ma per esempio ci abbiano una bella rima a cannone, rivoluzione, niente male. Brave sorelle partigiane, vi ricordiamo che siamo su Folk Oddio per scriverci, mandarsi suggerimenti, dirci quali sono le vostre sorelle partigiane. Per partecipare al nostro concorso senza premi, scrivete a folk.oddio@canaglie.org. E dai cannoni passiamo alle barricate, con un altro canto sorella di canto anarchico, che piace tanto alla nostra ragazza immagine in copertina, circola in tante versioni, una della resistenza romana e comunista e un'altra partigiana, che adesso vi mandiamo una dopo l'altra. La prima cantata dal canzoniere del Lazio e la seconda invece dal gruppo padano di Piadena, altra formazione storica collaboratrice dei Dischi del Sole e del Nuovo Canzoniere Italiano. Entrambe le sentiamo suonate nella stessa tonalità, che è Mi maggiore. Il giro è praticamente lo stesso dei briganti neri di prima, quindi Cominciamo con Su Comunisti della Capitale, cantata dal canzoniere del Lazio, la trovate sul loro primo disco del 1973, Quando nascesti tu. Su Comunisti della Capitale è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la Guardia Rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era che al mondo porterà la redenzione e porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione. E se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo cor piombo. E se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. E noi faremo del monte un baluardo, sapremo morire e disprezzare la vita. Per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Per le vittime nostre invendicate, per liberare l'oppressa nostra gente, ritorna sempre vinto nella lotta il patriota. Ritorna sempre vinto nella lotta il patriota. Il nostro grido è libertà o morte, sull'aspromonte ci siamo fatti lupi, al piano scenderemo per la battaglia, per la vittoria. Al piano scenderemo per la battaglia, per la vittoria. Famelici di pace e di giustizia, ma niente né fascismo e tiranni, rossi di sangue carichi di gloria nel fior degli anni, rossi di sangue carichi di gloria nel fior degli anni. Ai nostri morti sciaveremo la fossa, sulle rupestri cime sarà posta. Per loro risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Per loro risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. E questa era Con la guerriglia, suonata dal gruppo padano di Piadena, sempre una delle formazioni che ha collaborato con i Dischi del Sole e con il Nuovo Canzoniere Italiano. E niente, vi sarete chiesti quale sarà la sorella anarchica di questa canzone? E niente meno che, se non l'avete riconosciuta, l'Inno della Rivolta, 1894, e qui ve lo sentite suonato sempre dal gruppo Z. Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, ci spunta l'alba minacciosamente. Già spunta l'alba minacciosamente del diffatato, urla l'odio, la fame. schiene trite ed urla col suo schianto redentore, la dinamite, ed urla col suo schianto redentore, la dinamite. Siamo pronti e sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo. Sull'altro il nome santo d'anarchia insorgeremo, sull'altro il nome santo d'anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte dimenticate, l'anel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate. Compenseremo sulle barricate, piombo col piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo l'avvenir novella via. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia. Insomma, mi sono dovuta tagliare prima perché neanche a registrare sono capace qua. Dunque, abbiamo sentito l'inno della rivolta nella versione che fa il gruppo Z, con accordi leggermente diversi da quello di su comunisti della capitale e della guerriglia, e sono sol, sol, sol, sol, si minore, si maggiore settima, do. Dei canti anarchici magari parliamo un'altra volta. Continuiamo con questa puntata invece, sorelle partigiane, siamo su Folk Oddio, programmino offerto dalle canzoniere. Ci potete scrivere a folk.oddio@canaglie.org. Vi ricordiamo il nostro concorso senza premi, sorelle partigiane. Conoscete sorelle partigiane? Canzoni che ci volete presentare, che svino dagli ideali eroici e maschi delle canzoni che invece spesso sentiamo, mandatecele, scriveteci. Vi sarete chieste da dove vengono alcune delle informazioni che vi diciamo qua, un po' da tutto quello che ci capita sott'occhi, però ci teniamo a segnalare almeno un paio di siti dove potete trovare i testi, gli accordi e la storia di questi di questi brani. Uno è il deposito tuttoattaccato.org e l'altro è Canzoni contro la guerra, il sito è antiwarsongs.org. E il primo vi dà testi, accordi e qualche informazione, il secondo non vi dà gli accordi, però vi dà moltissime informazioni, bibliografia e riferimenti. E questo vale anche come suggerimento per il nostro concorso senza premi, sorelle partigiane. Potete spulciare un po' di siti, magari proprio questi, e vedere che cosa trovate e suggerircelo. Noi saremo ansiose di ricevere proposte e magari farci una puntata proprio apposta. E passiamo avanti con una sorella moderna dei nostri canti di resistenza. Questa è una ballata, forse come temi non è propriamente un canto di resistenza, ma senz'altro nasce nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1944 in una baita nelle valli del Cuneese. Le parole sono di 8 a 9 partigiani della quarta banda Giustizia e Libertà, che modificano un paio di canzoni popolari ed ottengono la Badogliaide. Tra loro c'è Nuto Revelli, partigiano, ufficiale, scrittore e autore anche delle parole di Pietalla è morta che abbiamo sentito prima. La Badogliaide di sorelle più giovani ne ha avute tante. Esiste per esempio una Renzeide cantata niente meno che da Margot, andatevela a cercare. E qui invece le facciamo sentire di seguito la Badogliaide e la sua contemporaneissima sorella di un paio di anni fa, la Salvineide, su parole di Alice Protto, bel esempio di sopravvivenza di melodie antiche adattate al moderne. Lei la suona all'ukulele, voi per suonarla potete sempre prendere in mano le vostre chitarrine. La Badogliaide è in La maggiore, sempre su due accordi, La e Mi, Mi settima, quello che volete, e la sua sorellina è invece in Re, quindi Re maggiore e La settima. Partiamo con la Badogliaide cantata qua dai Gufi.

da lasciarci di nuovo fregar. Se Silvio ci ha rotto le tasche, tu Salvini ci hai rotto i coglioni, pei leghisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Se Silvio ci ha rotto le tasche, tu Salvini ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. E queste erano la Badoglieide, cantata dai Gufi, e la Salvineide, cantata da Alice Protto, che ne ha anche riscritto il testo. E ci avviamo a concludere con un ultimo paio di pezzi. Il primo forse non ha veramente delle sorelle, in realtà si tratta di una rielaborazione di stornelli che trasmetteva l'emittente partigiana Radio Libertà, e la potete cantare con gli stessi accordi dei due pezzi che abbiamo appena sentito, però stavolta tutti in un brano solo: La maggiore, Mi maggiore per la strofa, e il ritornello sale di una quarta, Re maggiore, La maggiore. Nell'ultimissima ripetizione in realtà sale di una quarta ancora, quindi quando sentite che la voce si alza siamo in Sol maggiore, Re maggiore. Ma vabbè, insomma, tutto questo ci arrivate tranquillamente se non ci state solo ascoltando ma avete veramente le chitarrine in mano. E basta, adesso sentiamo Giovanna Daffini di nuovo che canta Festa d'aprile. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Liberare l'Italia, E questa era Festa d'Aprile, qui siamo su Folk. Oddio, fateci sapere quali sono le vostre sorelle partigiane, quali sono i canti di lotta o di protesta, o comunque i canti che vi piacerebbe sentire o imparare, scriveteci a folk.oddio@canaglie.org e ci avviamo alla conclusione con una piccola testimonianza, stavolta non è un canto, ma sono pagine di un diario del 26 aprile 1945, il diario di una partigiana, Giovanna Zangrandi, staffetta attiva nelle Dolomiti Altoatesine, che si unisce alla brigata partigiana Calvi quando i tedeschi annettono le province di Bolzano e Trento al Terzo Reich. Per quasi un anno Giovanna Zangrandi vive sulla montagna, nascosta tra boschi e fienili, con incursioni per trasportare informazioni, documenti e armi. E il 26 aprile del 45, imbellettata assieme a un'amica, se ne va a consegnare un carico di esplosivo al plastico, quando la liberazione da lei ancora non era arrivata. Tai di Cadore, 26 aprile. Occorreva del plastico da ferro per far saltare rotaie della ferrovia. E sta roba è in Auronzo, bisogna andarla a prendere, una 60ina di chili. Ci prepariamo ad andare, velocemente, io e Nerina, che è una staffetta di Tai, alta come un granatiere. A vederci affiancate, forse, sembriamo l'articolo Hill. Ci siamo fatte due facce pitturate, zampettiamo sulle scarpe della festa. Le mie, con 12 centimetri di tacco, portiamo con grazia due valigie. All'arrembaggio di una fortunosa corriera, che va ancora, troviamo come autista Agostino. È lo zio di Sergio e suo figlio è della nostra squadra. Agostino capisce e ci guarda. Guarda le nostre valigie, le prende con garbo per mettere nel portabagagli, sente che son vuote e tira un sospiro. Poi sente la mia voce staccata, si fa finta di non conoscersi. Mi dica, per favore, a che ora ripassa la sua corriera da Gogna al ritorno? Al ritorno, Gesù, mormora Agostino guardando le valigie. E prova a dire, ce n'è forse un'altra di corriera. Se volete, se lor signorine vogliono, si corregge in fretta perché è arrivato qualcuno. Non so, la mia corriera ha sempre dei ritardi. Sarebbe alle 3. Sospira ancora, restiamo soli, ci guarda con gli occhi tondi e fa, Gesù, con la mia corriera, lo so che è la roba delle rotarie, Gesù, se ci mitragliano. Chiude il portabagagli, sbirciando i nostri segni ex piatti, che ora hanno una maggiorazione a sinistra, nel taschino interno. Torna indietro, soffia. Metteteci il fazzoletto in quell'altro petto, sceme. Si capisce la 9 corto. To' il mio. Gesù santo, almeno finisse bene. I diari di Giovanna Zangrandi, che abbiamo appena ascoltato, Giovanna Zangrandi è uno pseudonimo, ma lei firma così i suoi libri, sono pubblicati con il titolo I giorni veri. Leggetelo, che è tra le poche testimonianze scritte di sorelle partigiane. E concludiamo davvero adesso con un pezzo originale, composto nel 1944 sull'Appennino tra Liguria e Piemonte dai partigiani del 5° distaccamento della 3ª Brigata Garibaldi. Qui la sentiamo eseguita da un gruppo vocale di ricerca Le Vie del Canto, basato a Genova, qui impresa diretta da una cantata, gli accordi sono, adesso dovrei riprendere la chitarra in mano, La minore, Mi maggiore, La minore, Re minore, La minore, e la strofa si chiude in La minore Si settima, Mi settima, il ritornello è maggiore, invece i soliti La, Re, La, Mi, La. Vabbè. Ho provato a suonarci sopra a un certo punto, mi scusino Le Vie del Canto se storpio la registrazione, e niente, il pezzo è più noto con la prima strofa del suo ritornello, il suo titolo vero è Dalle belle città, altrimenti nota come Siamo i ribelli della montagna. Dalle belle città da te al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, buttammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, fermammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina. Rosso sangue è il colore della bandiera, partigiano è la forte ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'amor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Belli della montagna, viviamo di stenti e di battimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. E sulle note di Dalle belle città ho detto siamo i ribelli della montagna, qui cantato dalle vie del canto. Vi salutiamo, vi ricordiamo il nostro concorso senza premi Sorelle Partigiane. Diteci quali sono le vostre sorelle partigiane, scriveteci a folk.oddio@canaglie.org e vi mandiamo la sigla che, per chi ce l'ha chiesto l'altra volta, è la tarantella del 600 suonata dalla nuova compagnia di canto popolare. Bacioni. E ora è sempre resistenza. Cari amiche e cari amichesse, Folco Oddio è finito, ma questa è una piccola postilla che mi sento di dirvi. Abbiamo parlato di Group Your Room, quando questo podcast era già chiuso, per la precisione ieri 24 aprile, abbiamo letto che è morto Mustafa Koçak, anche lui parte del Group Your Room. Abbiamo detto che Helin Bölek era morta 3 settimane fa, entrambi stavano conducendo uno sciopero della fame. Vi leggo qualche stralcio dall'articolo che è comparso sul sito di Radio Popolare proprio il 24 aprile. I motivi di una protesta così radicale erano la repressione subita dal loro gruppo, storica e popolarissima band militante di riferimento della sinistra rivoluzionaria turca. oggetto di continui attacchi da parte del governo, assalti e perquisizioni alla loro sede e al centro culturale a Istanbul, arresti, persecuzioni giudiziarie e da ultimo anche l'interdizione al palcoscenico. Dal 2015 i loro concerti, a cui partecipavano decine di migliaia di fan, erano vietati. Potete continuare a leggere la notizia sul sito di Radio Popolare. E adesso, per riempire questa mezz'ora che ci separa dalle 20, vi faccio sentire Bella Ciao, fatta da Group Your Room. Se cercate il video su YouTube, li troverete che suonano in tantissimi di fronte a un pubblico sconfinato, e adesso invece muoiono. Niente, di nuovo buona resistenza, Group Your Room, Bella Ciao. İşte bir sabah uyandığımda, çal bella, çal bella, çal bella.